24 mattino. Sì, ma da quanto tempo si sapeva che dovevano aprire con mascherine e guanti? I parrucchieri hanno già ordinato parecchio tempo fa dalle case grosse. Insomma, voglio dire, bisogna anche avere un pochino di elasticità mentale, eh? Buongiorno Simone, volevo chiedere una cosa, ma quale differenza c'è tra un tatuatore e un estetista? Perché i tatuatori non possono riaprire, mi piacerebbe tanto capirlo. Le regioni per l'ennesima volta si sono dimostrate un ente inutile, costoso ed inutile. Reclamano autonomia, reclamano indipendenza, poi quando c'è da prendere una decisione pendono sempre dalle labbra di mamma Roma. Eliminiamole. Bella, bella, mi pare un po' troppo, per, almeno per come la vedo io, No, non sono un ente inutile, alcune hanno gestito bene, altre hanno gestito male, di certo c'è, ripeto, un gioco di scarico di responsabilità, cioè da una parte alcune regioni spingevano per aprire, perché dall'altra parte... presumibilmente il governo, per una serie di timori, intendeva rinviare ulteriormente le aperture. Dunque le regioni hanno spinto. Hanno spinto il governo a intervenire, il quale governo è intervenuto, e però in questo modo le regioni hanno in parte scaricato la responsabilità sul governo. Come vedete, è una situazione talmente complessa che non ci consente di avere, di poter... esprimere una posizione così netta come quella dell'ascoltatore. Oh, per quanto riguarda l'ascoltatrice che diceva, insomma, da quanto tempo estetisti, parrucchieri, bar, ristoranti sapevano che bisogna comprare mascherine e guanti? Ma certo, questo lo sapevano presumibilmente, così come i disinfettanti, che peraltro non si trovano. O si trovano molto poco, si trovano con difficoltà. Certo, questo è chiaro. E però poi all'interno dei provvedimenti sono contenute tutta una serie di regole che devono far sì che tu attrezzi il tuo locale in certi modi. Vi faccio un esempio. Per i negozi sotto i 40 metri quadri funziona in un modo. Un solo cliente e massimo due commessi, massimo due persone all'interno del negozio, quindi. E quindi tre persone in tutto. Per i negozi sopra i 40 metri quadri funziona in maniera diversa, e allora devi organizzare il tuo spazio sulla base delle regole che arrivano. Se queste regole arrivano 12 ore prima dell'apertura, è evidente che avrai delle difficoltà a riaprire. E non sono entrato così nel dettaglio come conoscere la differenza tra un tatuatore e un estetista, in tutta sincerità. Immagino che l'ascoltatore sia un tatuatore, però insomma non, su questo non so rispondere, perché non conosco quali siano le regole igieniche che devono sottostare all'una e all'altra professione. Quindi vi chiedo perdono. Comunque, se avete le vostre storie di riapertura, le vostre idee anche su tutto questo, c'è il 349-238-6666 per i vostri sms, i messaggi su WhatsApp, soprattutto audio, le vostre voci, fatecele sentire, torneremo a parlare di tutto questo, ovviamente alle 8.20, lo faremo adesso in rassegna stampa. E poi alle 8.20 ci torneremo, lo faremo col presidente della Federazione dei Pubblici Esercizi e poi il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ovviamente sempre con Maria Latella. È la seconda parte di 24 mattino, sono le 7.21 minuti, anzi le 7.22 minuti di lunedì 18 maggio, ed è la parte dedicata alla rassegna stampa. Al microfono sempre Simone Spezia, e iniziamo come sempre dalle aperture dei quotidiani. È la fine della quarantena, secondo la Repubblica. È un si riparte regioni divise e Boccia che dice rispettate la legge, secondo la Stampa. È un'Italia che riparte tra le tensioni, secondo il Corriere della Sera. Ed è una ripartenza con strappo, secondo il Messaggero. È un'Italia che riapre un altro po', secondo il Fatto Quotidiano, che aggiunge ma il regno di De Luca Land, no... E secondo il Quotidiano Nazionale, anzi il Quotidiano Nazionale ci illustra proprio, ci fa una specie di guida, tutto quello che si può fare da oggi. Libero ci dice che, secondo loro, se hai i soldi in banca, occhio che te li fregano. Conte punta ai nostri risparmi e il timore di una patrimoniale, anche secondo La Verità, Conte una legge peggio dell'altra, le aziende 12 ore per aprire. Falsa ripartenza, dice il giornale, regole incerte, regioni in rivolta, riaperture difficili e poi pochi soldi e non per tutti. Il Foglio dedica una tre pagine di Luciano Capone e Carlo Stagnaro sul tema delle mascherine. Commissario, giù la mascherina, il virus del populismo statalista sul tema del prezzo fissato. Il Sole 24 Ore, nel Sole 24 Ore del lunedì, scende nel dettaglio su quelli che sono tutti i bonus. L'Italia dei bonus prova a riaprire, ecco tutti gli aiuti al lavoro e negozi. E poi ci ricorda che a fine giugno 29 miliardi di tasse. Perché resta invariato l'appuntamento con il fisco del 30 giugno, quando scadono il saldo 2019 delle imposte dirette e il primo acconto 2020. Occhio, occhio, occhio. Iniziamo come sempre da qualche storia laterale, per così dire, qualche elemento dal territorio, oggi, a partire da Roma. Vi avevamo raccontato nei giorni scorsi del caso Molisano, il funerale ovviamente non autorizzato di un gruppo di cittadini di etnia rom che aveva fatto esplodere il numero di contagi in Molise, 80 persone, 80 persone che per la popolazione molisana naturalmente rappresentano un numero piuttosto elevato. Non così a Roma, dove però è un funerale a creare una microzona rossa. Questo per darvi l'idea di come possono funzionare le cose e di quello che può succedere, di quello a cui stare attenti e del chiedersi se era il caso di far ripartire le esequie. Roma, contagi raddoppiati, un altro funerale focolaio. È il titolo del pezzo di Pierpaolo Filippi e Raffaella Troili, che ci portano nella zona di Roma Nord e ci raccontano a pagina 8 che sono state pericolose quelle lacrime, come i baci e gli abbracci sull'onda del dolore. Un'impennata di casi positivi a Roma per colpa, tra virgolette, di un funerale. 33 nuovi contagi nella capitale, il giorno prima 15, e 50 in tutto il Lazio. Appunto, colpa di una serie di contagi avvenuti durante la partecipazione a un funerale. Risultato, 4 famiglie contagiate, 18 persone su 24 presenti, ma non c'era un limite, tra l'altro, non mi ricordo, ma erano 15 il numero, il limite di persone che poteva partecipare a un funerale. Tutti imparentati tra loro e residenti a Roma Nord, municipio 15, in 4 villette vicine dove ora sono in isolamento adulti e bambini. Una situazione drammatica che rende quell'area della città una piccola zona rossa, con gli uomini della Croce Rossa che portano loro gli approvvigionamenti. Siamo in aperta campagna, in un comprensorio tra Prima Porta, Santa Cornelia, Valle Muricana, tutti sotto stretta osservazione, almeno per un mese, sperando che nessuno si aggravi. Sale così l'allarme sui cluster familiari, ma anche sulle occasioni di ritrovo, come appunto i funerali. L'assessore regionale alla sanità Alessio D'Amato avverte: voglio ribadire che ogni giorno a Roma si svolgono 150-160 funerali, sono occasioni in cui normalmente si tende ad abbassare la guardia e quindi occhio a non abbassarla. Vi voglio mantenere sul Messaggero per parlarvi di quello che è veramente, guardate, un caso curioso e che vi dà la dimostrazione di come alcuni parametri utilizzati e scelti dal Comitato Tecnico Scientifico probabilmente non sono adeguati. Ed è il caso dell'Umbria, che sta circolando da ieri, dalle ore scorse, perché è veramente pazzesco. Benvenuti in Umbria, ci scrive Mauro Evangelisti a pagina 6, dove anche ieri non è morto nessuno per Covid, sono stati registrati solo 2 casi positivi, è tra le regioni con meno decessi in assoluto da quando è iniziata l'epidemia e oggi ha solo 2 pazienti in terapia intensiva per Covid. Eppure, secondo il primo report della cabina di regia, formata dall'Istituto Superiore di Sanità e il Ministero della Salute, che deve elaborare i dati di 21 indicatori, l'Umbria è a rischio. così come il Molise, altra regione con una manciata di casi e meno decessi in tutta Italia, alla pari della Lombardia che invece ha più casi di tutta la Cina. Così a difesa dell'Umbria, che viene messa sullo stesso piano della Lombardia, interviene direttamente la Lega con il gruppo regionale che scrive: qualcuno sta prendendo in giro l'Umbria o peggio ancora sta cercando di danneggiare la nostra regione, non possiamo assolutamente permetterlo. Qual è il punto? Il punto è che come vengono calcolati questi dati e come vengono calcolati settimanalmente, questa cosa può creare problemi. L'RT è l'indice di trasmissione del virus, quanti soggetti mediamente contagia un positivo in un determinato periodo di tempo. Da quando è iniziata questa storia è divenuto un indicatore a cui tutti guardiamo con paura. All'inizio l'Italia, in Italia era arrivato a 3, l'epidemia si alimentava in maniera esponenziale, bisognava assolutamente restare sotto 1, ma come spiegava l'altro giorno in un'intervista al Messaggero il professor Stefano Merler, ricercatore della Fondazione Kessler, che elabora dati per conto dell'Istituto Superiore di Sanità, l'RT va maneggiato con molta cautela e letto insieme a tutta una serie di indicatori. Il problema è che se vai a esaminare l'RT dell'Umbria, inserito nel report, salti sulla sedia. Risulta avere un valore medio di 1,23, con un'oscillazione che addirittura tocca quota 1,79. In Lombardia è a 0,62, eppure ieri ha registrato 362 casi, più di tutte le altre regioni messe insieme. Il Piemonte, che ormai è vicino a 30.000 casi, dove ieri ha registrato, Cirio lo sapete, ha deciso di rinviare le aperture a sabato prossimo per prudenza, ha un RT allo 0,34. E l'Umbria quindi, con praticamente con zero casi o pochissimi casi, si ritrova tra le regioni a rischio moderato, in posizione intermedia. Siamo al Piemonte, appunto, e qua continuiamo questo viaggio nel territorio perché molte pagine ci sono in giro. Il Piemonte, Lodovico Poletto da Torino, sulla Stampa, pagina 6, ci racconta che in Piemonte ieri c'è stato il 16% dei nuovi casi e c'è il rischio di richiudere tutto. Il Molise è al primo posto, ma è un caso a parte nel panorama nazionale. Il cluster di contagi al Campo Rom di Campobasso, 80, ha drogato le analisi facendo balzare la regione in testa a tutte le classifiche. Ma sono altri numeri che preoccupano. A 2 settimane dall'allentamento del lockdown, il Piemonte permane nel gruppo di testa delle regioni dove il virus continua a correre. E qua appunto sono i numeri, in crescita i contagi del 7,2%, meglio solo di Liguria, Lombardia e Lazio. Numeri alti, sì, specialmente se si pensa a livello nazionale, la crescita media è del 6,25%. Un alto numero dei contagi, ci sono stati, secondo i dati di ieri, solo 164 casi in più del giorno precedente, ma sono stati processati solamente 4.200 tamponi contro i 6.200 di venerdì. E non è finita. I risultati più che buoni di questi giorni sono frutto del periodo di lockdown. Che cosa succederà adesso? E dunque emerge la possibilità, il rischio che si richiuda tutto. A chiudere questa parte, questo giro dedicato alle regioni, poi andremo con Paolo Mieli e ricominceremo sul tema della ripartenza e più in generale anche l'aspetto politico, questo scontro tra le regioni, c'è un caso che ha a che fare con la Lombardia, non solamente con tutto quello che abbiamo raccontato, i problemi che ha avuto in termini di contagi, di pressione sulle terapie intensive, le vittime e tutto quello che sappiamo, ma a questo punto anche di minacce, per così dire, nei confronti del presidente della regione Fontana, dove spuntano i volantini rossi, una specie di campagna d'odio, la definisce il giornale a pagina 10 con Ignazio Stagno. Nei giorni scorsi, ed è ancora lì in bella mostra lungo il naviglio della Martesana, è apparsa la scritta shock Fontana assassino e accompagna queste domeniche di fine lockdown di runner e ciclisti a Milano. Nessuno l'ha rimossa. È stata realizzata dal CARC, partito dei comitati di appoggio alla resistenza per il comunismo, e adesso rilancia con dei volantini nei quali viene rivendicato il murale, se di fatto vengono ribadite le accuse. Viene riportato tra l'altro anche un pezzo del giornale. Il CARC dunque prova a zittire chi reputa pericoloso il messaggio che passa attraverso quel muro. più di 15.000 morti e ancora parlate, scrivono nel volantino. Questo è il racconto che arriva dal Giornale, pagina 10, con Ignazio Stagno. Una pausa. Mattino. Ma riguardo alle linee guida che arrivano all'ultimo minuto, va bene, ma anche se non riapri proprio oggi e riapri qualche giorno dopo, non cade il mondo. Tanto sono 70 giorni che i negozi sono chiusi, quindi non te l'ha ordinato il dottore di riaprire proprio lunedì, puoi riaprire qualche giorno dopo senza fare tanti drammi. Vorrei rispondere a chi ha detto che le regioni vanno eliminate, direi il contrario. Il governo centrale non serve più a nulla e lo ha dimostrato in questa occasione. Agli estremi proprio, i nostri ascoltatori, agli estremi. Raccomando invece al primo ascoltatore, lo dico con l'affetto che porto nei confronti di tutti voi, di... stare attento con queste frasi, guardi che c'è gente qua che non, molto banalmente non ha più quattrini, non sa più come mantenere i suoi dipendenti e quindi non vede l'ora di aprire anche solamente per lavorare. Su questo fronte un po' di rispetto, nel senso che se è giusto, se ritengono che di dover aprire il lunedì, devono poter riaprire il lunedì. E gli devono essere date delle regole chiare, gli devono essere date prima. Del resto è stato detto da giorni, cioè le regole vanno date con un po' di anticipo. Torneremo a parlarne di tutto questo, Due precisazioni intanto. Sì, è vero, non è avvenuto in un campo rom il contagio a Campobasso, ma è avvenuto in realtà ad un funerale, perché i rom di Campobasso non stanno in un campo, ma stanno nelle case. Lo avevamo raccontato, insomma, una comunità molto integrata, quella rom di Campobasso. E all'altro ascoltatore che dice: non conoscete la statistica in merito all'Umbria? Sì, la conosciamo, però i numeri dell'RT sono chiari, insomma, no? Ed è chiaro da cosa dipendono. Però mettere l'Umbria nel rischio moderato con i numeri assoluti che ha è un po' strano, lo ammetterà anche lei. Caro Paolo Mieli, buongiorno, eccoci qua, buongiorno. Eccoci qua. Allora, prima di partire vorrei aggiungere una cosa a proposito di funerali. È capitato adesso anche a Roma, una seconda volta, un funerale con poi un picco di contagi. Sì, l'abbiamo raccontato poco fa in rassegna, esatto. Sì. Lo dico perché si tenga conto, i funerali si sta vicini, si piange, le lacrime, come è noto, gli occhi sono un mezzo attraverso il quale il morbo si insinua. Insomma, solo per citare, non è stato l'unico funerale, quello di Campobasso, che ha generato una ripresa della crisi, ma comunque oggi Là erano 80, quindi diciamo era un po' diverso oggettivamente, in violazione delle norme. Comunque festeggiamo oggi il giorno della ripartenza. A me sembra giusto quello che ha appena detto l'ascoltatore. Si sa che il 2 giugno ci sarà una terza ripartenza, quella più generale. Forse sarebbe il caso che le norme per la terza ripartenza venissero date adesso, in modo che ci siano 15 giorni, ammesso che il 2 giugno tutto vada bene e partiremo per la fase definitiva, ecco quali saranno, ammesso che poi daranno il giorno prima all'annuncio che si parte effettivamente, però quello di conoscerle mezz'ora prima. Che è quello che richiedono, i pubblici esercizi e i negozi da tempo. Comunque oggi il giornale da comprare a tutti i costi, da leggere pagina dopo pagina, sono le 24 ore del lunedì, perché essendo un giornale prefabbricato è un giornale che contiene tutto, ma proprio tutto per la ripartenza. Un articolo di Marta Casadei e Flavio Landolfi, di idee dei negozi, dei prestiti, dei bonus, un puzzle in 10 aiuti che sono tutti ben elencati, IRES, IRPEF, cedolare di fine giugno senza proroga, un conto da 20 milioni, qui gli articoli di Cristiano Dell'Oste e Giovanni Parente, poi il fisco riabiliti il mattone, sarà la spinta del, dei ci sia per l'economia di Primo Cepellini e Roberto Lugano. E a proposito di Mattone, sì. L'articolo che mi ha colpito di più è questo, che sta a pagina, non lo so, in una pagina interna, a pagina 15. Adesso te lo recupero, eccolo qua, sì, pagina 15 con Evelina Marchesini, sì. Che racconta case troppo piccole, rischio di svalutazione in centro città. Dice una cosa che forse pare ovvia a tutti, ma così ovvia non era e comunque ha avuto un'influenza sul mercato, che le case piccole, quelle di meno di 80 o 70 metri quadri, che sono tantissime, si stanno svalutando, stanno perdendo valore perché in vista di una possibile ripresa del contagio tutti coloro che hanno nuclei familiari di 3 o 4 persone vogliono poter gestire il contagio in casa e avere qualche metro in più. Sì. E dà anche una statistica dei capoluoghi più affollati, che non sono, come uno potrebbe immaginare, le città del sud, ma anche città del nord. Al primo posto c'è Napoli e Roma, ma poi anche Genova, Torino, Milano, Trieste, Aosta, e sono, il calcolo è sulle la quota di abitazioni inferiori a 80 metri quadri occupate da più di 4 persone, e siamo al 34% a Napoli, 32% a Roma, 32% a Genova, Torino, Milano, siamo tutte intorno al 30% sostanzialmente. Quella messa meglio è Perugia. E comunque, sempre per consolare, nella pagina a fianco c'è un articolo di Paola Pierotti, architetti in campo per ricreare gli spazi oltre l'isolamento, e fanno vedere tutte le soluzioni degli architetti. Certo, questa questione è importante, sì, sia perché incide sulla vita di tutti, ma soprattutto perché incide sul mercato immobiliare, cioè sul valore delle case. Andrà ricalcolato, se uno vuol vendere casa o acquistarla, andrà ricalcolato che acquistare una casa piccola adesso, sì, è più conveniente se uno non ne ha bisogno nell'immediato, così, e invece le case grandi aumenteranno di valore o avranno lo stesso valore di adesso. Oh. Senti, caro Paolo, come hai visto i nostri ascoltatori, come avrai sentito, i nostri ascoltatori si dividono sul tema delle regioni, e lo scontro tra regioni è stato al centro anche di queste ultime vicende, di queste ultime ore, su tutto i giornali ne troviamo traccia, con questa posizione del presidente campano De Luca, che dice: no, io l'intesa non la firmo. Guarda, io sono personalmente sono a favore dello Stato centrale. Le regioni sono state fatte troppe concessioni 30 anni fa, 20 anni fa, alle istanze così localistiche, separatiste, leghiste, come peggio come va. Però devo dire che De Luca è stato un eroe di questi giorni del lockdown, nel senso che si è mosso con le unghie, con i denti, come si dice, a difesa della sua regione, ed è lodevole. Se fosse un mercante, come lo sono spesso questi governatori di regione, direbbe: venite turisti, dai, riarricchiamoci, mentre invece è un campione del rigore. Da quando, sì, diceva che voleva andare col lanciafiamme contro quelli che organizzavano le feste di laurea, a quando ha detto che lui vedeva dei vecchi cinghialoni travestiti da runner che andavano a correre e si voleva mettere dietro un angolo con un bastone e picchiarli direttamente. Insomma, è stato uno spiritoso, poi grazie alla popolarità, sì, che gli hanno dato le innumerevoli imitazioni, prima tra tutte quella di Crozza, è diventato un personaggio del rigore. E quando ci fu quella famosa fuga dal nord verso il sud, lui, il governatore Emiliano, e devo dire, sì, la parte del leone l'ha fatta anche la nuova governatrice, non so come mai si dica, della Calabria. Viola Santelli, insomma, sono stati tosti e hanno salvato il Mezzogiorno da un contagio che a me, per esempio, personalmente sembrava inevitabile. Sì. Quindi, bravi governatori. Allora, a proposito, scusami, fammi, sì, dire ancora due cose. A proposito della ripartenza, poi ci sono tutte le cose buffe, sul fatto, ne, sì, vengono censite. ammesse le manifestazioni ma forma, solo in forma statica, cioè nelle cose si possono fare grandi manifestazioni, però devono stare fermi. Un milione di persone in piazza, ma un milione di persone in piazza, ma ferme, teatro, ferme, immobili. Teatro, distanze anche tra gli artisti, vietate le scene con i baci. Fantastico. Cioè a teatro vabbè. Tutte le scene che prevedono un bacio, quelle sono vietate, si saltano, non per censura, ma perché gli artisti devono stare a distanza. Vorrò vedere alcune celebre, Romeo e Giulietta, sono curioso di andare a vedere... Romeo e Giulietta post lockdown, sì. Comunque queste sono le norme contenute, poi ce ne sono, sì, ce ne sono di tutti i tipi. Traffico. Mattino. Attenzione, agguato in arrivo a Paolo Mieli, che in questa rassegna stampa non ama quando parliamo dei suoi articoli, e però oggi firmi l'editoriale di prima pagina sul Corriere della Sera. Io non gliel'ho detto prima che l'avrei citato, eccoci Paolo, sul tema del ruolo del Presidente del Consiglio, sul tema degli agguati appunto inventati al Presidente del Consiglio, ma nel quale di fatto dai anche la sufficienza a questo Giuseppe Conte. Do la sufficienza e gli perdono anche queste ridicole apparizioni in televisione ogni sera, quelle su cui ironizza Vittorio Feltri oggi sul Libro, dice che lo fanno addormentare, ma tutti sono diventati tolleranti, tanto si sa, inutile guardare il telegiornale, perché a un certo punto appare Conte e sta lì fra i 30, i 40, a volte 50 minuti, dipende da come gli va la serata. E dice tra l'altro delle cose generiche, spesso annunciando decreti che arriveranno 20 giorni dopo. Comunque devo correggermi, prima quelle notizie che davo sul teatro dove non si può baciare, sì, manifestazioni che devono essere sostanziali, sono sul giornale, non sul fatto. Ho sbagliato io a leggere. E finendo nella politica, bisogna dire che oggi ci sono tante cose sulle task force. Sì. Un numero speciale del Foglio contro Domenico Arcuri, che dà dei consigli, ma sono consigli avvelenati. E soprattutto vari articoli su Colao, che guida la seconda task force, uno del Messaggero che dice che ai primi giugno, anzi da proprio la stessa data, il 7 giugno, se ne va e se ne va via per sempre. Sì. L'altro su Repubblica di Annalisa Cuzzocrea, divertente, che dice che quando parla Colao... innanzitutto Conte lo fa aspettare 2 ore e mezza lì in quelle riunioni, e poi quando parla Colao lui è infastidito, parla al telefono, si annoia, lo invita a essere breve, a elencare solo i titoli. Ecco, Annalisa Cuzzocrea dice: storia di un feeling mai sbocciato. Eccolo qua, c'è di peggio che un feeling mai sbocciato, insomma è quasi un segno di insofferenza. Sì. Infine c'è un caso, poi finisco con le cose nazionali, c'è un caso perché non la Fiat, l'ex Fiat, la FCA avrebbe diritto, secondo le leggi nazionali e internazionali, a chiedere dei sussidi, e c'è tutta più che un sussidio è un prestito, è il prestito garantito dallo Stato, garantito da Sace, avrebbe già chiesto, ha già chiesto questo prestito da 6,4 miliardi e c'è tutta una polemica che è montata su questo, no? La sinistra non glieli vuol dare, Bersani ha detto che si devono dare questi sussidi, prestiti, solo a quelli che hanno la residenza fiscale in Italia. E che poi è una cosa controversa, perché se dice siamo Europa, non entro nel merito. E soprattutto Orlando ne ha fatto una cosa più generale, l'ex ministro della giustizia Orlando, dicendo che secondo lui c'è una congiura dei giornali che sono tutti in mano a editori non puri, portatori di altri interessi, e che vogliono abbattere Conte. Adesso lo riassumo, l'intervista era ieri sul Fatto ma rimbalza oggi su molti giornali. Vogliono abbattere il governo Conte per mettere le mani su 55 miliardi, non si capisce bene come. Risposta oggi un editoriale sdegnato di Massimo Giannini sulla Stampa. Chiusa con l'Italia. Ok, molto rapidamente, poi ci ritorniamo molto brevemente sull'Italia. La questione americana e brasiliana sono i due paesi un po' sotto i riflettori oggi. Negli Stati Uniti con Obama che si scaglia decisamente contro Trump in appoggio a Biden, no? E certo, io leggo un articolo di Giuseppe Sarcia nel Sole 24 Ore, Obama... Corriere Trump, della Sera, credo. Sì, Corriere della Sera, scusami, incompetente, corrotto. È la prima volta che un presidente si trova, in genere il fair play americano, consiglia all'ex presidente di non intervenire se non con marginali correzioni sull'atteggiamento del suo successore. Ma Obama ha perso le staffe e con un intervento senza precedenti gestisce, demolisce la gestione della crisi Covid da parte di Trump. Visto che ci sono sulla stessa pagina, c'è un caso curioso, seguitelo. In Israele è morto l'ambasciatore della Cina in modo strano e Pechino sta inviando una squadra speciale per indagare sulla morte strana di questo ambasciatore. Poi, come dicevi tu, c'è l'affare Bolsonaro. Bolsonaro, e anche questo, Bolsonaro è la seconda volta un ministro della salute, per la seconda volta durante l'emergenza Covid. Un ministro della salute si dimette, Bolsonaro sta nel caos, esplodono i contagi e i giornali sono pieni di... io lo leggo in questo momento sempre dal Corriere della Sera, un articolo di Rocco Cotroneo, esplosione di contagi in Brasile, lite e dimissioni, Bolsonaro nel caos, c'è un lungo articolo sul fatto che forse Bolsonaro può essere il primo leader che salta per aria a causa di questa crisi che, come è noto, lui ha sottovalutato. Senti Paolo, non possiamo non chiudere con l'illustre costituzionalista che si esprime a pagina 21 di Libero. Guarda, me lo sentivo che rimanevi. Tu sei attenzione, sempre così. Ma allora, c'è un grande dibattito fra i importanti costituzionalisti, Gustavo Zagrebeschi, Giovanni Maria Flick, Sabino Cassese, se con questi provvedimenti il governo abbia si è andato oltre la Costituzione. Un dibattito serissimo, e anche persone serie, non ostili al governo, dicono sì, effettivamente è andato. Oggi porta il suo peso decisivo in questo dibattito Pippo Franco, famoso comico. Come non sentire l'opinione di Pippo Franco sulla violazione della Costituzione? A Francesca D'Angelo dichiara che la pandemia ci sta costringendo a muoverci al di fuori della Costituzione. Tutti i suoi valori sono stati interamente sospesi e con essi anche la democrazia. È un po' forte come affermazione, ma venendo dalla voce di Pippo Franco, dall'autorevole voce del costituzionalista Pippo Franco, possiamo è giusto dar voce agli ascoltatori. Far sapere agli ascoltatori c'è anche questa posizione. Allora, caro Paolo Mieli, noi ci risentiamo mercoledì, naturalmente, chissà cosa ci riserveranno i giornali in questo fantastico dibattito sulla Costituzione. Ci risentiamo mercoledì, Paolo, buona giornata. Grazie. E buona settimana, la prima settimana di fine vera e propria del lockdown. Ci fermiamo, ci ritroviamo tra poco, come sempre, con Maria Latella. Parleremo prima dei pubblici esercizi, ristoranti, bar e via dicendo, ma siete chiamati a intervenire su tutto, su questa fine del lockdown, su come vi sembra, soprattutto se siete titolari di qualche negozio, di qualche bar, ristorante, fate sentire la vostra voce. 349-238-6666 con gli WhatsApp audio, poi parleremo con il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, c'è anche l'800 24 00 24 per intervenire in diretta, se volete iniziare a prenotarvi è un piacere, e siamo in diretta su Facebook. A tra poco.